Professor Spillik, non mi poteva fornire un aggancio migliore dell'ultima frase che ha pronunciato. Letteratura, sì, ma non può fare a meno della verità. Ora, se noi guardiamo la figura di Gregorio, è forse la figura, tolgo il forse, più complessa del mondo antico, poeta, filosofo, teologo, mistico, monaco di vocazione, sacerdote vescovo di coazione, ma poi accettati con molto zelo, figura drammatica di sgomenti interiori e di adesione profonda alla fede. A distanza di pochi versi troviamo sgomento e troviamo potenza di affermazione. Sarebbe la figura più dispersiva che noi possiamo trovare probabilmente in cultura antica. È certamente il primo romantico, il primo uomo che ha scoperto il dissidio interiore, 2.1.14, Carmi, il bosco ombroso con la lacerazione dell'uomo. È il primo romanticismo, senza dubbio, ed è nel medesimo tempo un classicismo. Nessuno ha mai adoperato tanto versi di classici, tranne Nonno di Panopoli probabilmente, quanto ne ha usato lui. E sono profondamente convinto che le due prime poesie accentuative sono sue. Gli sono negate unicamente per preconcetti. Dunque un uomo d'un ventaglio enorme. L'uomo sarebbe totalmente dispersivo. Aveva un nucleo, un centro. Qual era questo centro essenziale? La verità. Credo proprio in questo sostanzialmente la verità. Verità come aletheia, scoprire, molto greco, scoprire, lontano, la verità come rivelazione. E insieme la verità, il latino diceva di non saperlo. Il professor Bernardi, una persona molto acuta, è professore all'Università di Montpellier, attualmente alla Sorbona, che ha scritto un grosso volume sui padri cappadoci e poi numerosi articoli su Gregorio, sempre estremamente acuti, diceva non è vero, il latino lo sapeva, anche diceva che non sapeva, un pochino per snobismo, un pochino perché non era un gran letterato in latino, però sapeva. In latino veritas, l'appoggio, la fiducia, ciò di cui ci si può fidare. È interessante, ho trovato interessante un esame sulla verità e offre una schedatura enorme. Non posso citarla tutta, l'ho già consegnato agli atti, però qui mi limito semplicemente ad alcuni sguardi sintetici e sono 12 punti diversi da cui ha osservato la verità. Vediamoli in maniera estremamente schematica. Documentazione completa, dicevo, sarà agli atti. Primo, accezione assoluta ed intellettiva. Quando nel Carme 2.1.11, vi risparmio i versi, Gregorio ricorda che un sapiente disse che ciò che domina il mondo è la verità, intende il concetto in un'assolutezza che coglie tutti gli aspetti d'ogni possibile definizione, riassumendo tutta l'ampiezza del termine. Nell'orazione 40-45, orazione e paragrafo ovviamente, in una interpretazione allegorica della salita di Mosè sul Sinai, intima agli eretici di stare discosti per non venire lapidati dalla verità. Il concetto non è collegato a nessun contenuto particolare. Il rischio di disperdersi nella strattezza è ovviato da una potente concentrazione. Spesso l'indeterminatezza viene precisata in un'accezione particolare dall'ambiente culturale in cui viene immessa. In Carmi 1.2.29.95, verità vale schiettezza nel ritrarre e riferire la realtà delle cose, l'autenticità di un procedimento. Nell'epistola 79.9 vale sincerità di un'affermazione. Secondo punto di visione, la verità come nozione di realtà effettiva. Questa accezione è notevolmente diffusa. Nell'orazione 14.124 il termine rende l'effettiva consistenza dei fatti. Altrove concerne la realtà dei sentimenti. Così nell'epistola 145.6 vuole chiarire se la figlia di Veriano propende davvero per il divorzio dal marito, come sosteneva il padre, mentre nell'epistola 158.1 riguarda l'autenticità dell'aspirazione della Vergine Alipiana ad una vita consacrata a Dio. Talora la verità effettiva proclama la genuinità della propria natura ponendosi in antagonismo con le ombre. Come nell'orazione 25.4. Oppure in antagonismo con le favole, orazione 39.3, in antagonismo con i sogni, 18.30, con le parvenze, orazione 21.35. Falsa parvenza anche il trucco, sia nel suo significato generico che in quello specifico di cosmetico, il quale mira ad esibire una bellezza artificiale che non esiste effettivamente, orazione 8.10. Nell'epistola 89, verità e la schietta e franca analisi della situazione in cui si trova Gregorio riguardo la chiesa di Nazianzo e riguardo alla denuncia dell'austerità con cui lo trattavano con i vescovi della Cappadocia. Nel Carme 1.2.15, 141.42, asserisce con una parola verace e tetuimon il giudicare l'uomo uno zimbello di Dio. Intende dire che coglie la realtà della situazione, ma qui il vocabolo ha una tensione amara e pervaso di una deplorazione scorata. Il poeta non crede che sia una realtà, si sfoga dinanzi ad una realtà che percepisce angosciosa. È più la voce di un'analisi, non è più la voce di un'analisi, ma di una protesta travagliata. Della vita osserva solo gli aspetti più tristi e ne esprime il cruccio. Più che la natura delle cose, la parola qui interpreta la ferita che le cose gli hanno inferta. Non traduce un concetto, ma un sentimento, ed è intrisa di polemica. Ma non è irriverente, non sa di ribellione, è piuttosto stanca, implorante. Sembra un rimprovero a Dio, ma è una supplica. Gregorio capisce che questa miseria non è piano di Dio, ma conseguenza dall'allontanamento da Lui. Tant'è vero che subito, verso 147-48, egli si spoglia delle cose terrene per abbracciare Cristo. Qui c'è il superamento, questa è la verità. Al riguardo va esaminato tutto il Carme 1-2-16. Terzo, significato linguistico. La terminologia sulle verità, oltre che a riferirsi alla verità ontologica, può concernere anche la formulazione verbale. Il problema della numerazione delle persone trinitarie e della sua portata concettuale impegna Gregorio in un dibattito serrato, nel quale ad un certo momento rimprovera ad un obiettore di legiferare sulle parole senza promuoversi nell'ambito della verità. Orazione 31.19, dove la verità è insieme realtà e concetto intellettualizzato e verbalizzato. Respinge l'errore nel concetto e nel suo maneggio, rifiuta il non saper raggiungere idee né collegarle in rapporti validi. Se il linguaggio diretto è sdrucciolevole, potendo facilmente aprirsi su deduzioni aberranti, assai più pericoloso risulta l'uso della similitudine, tanto allettante quanto insufficiente. Nel corso di una discussione sulla consustanzialità afferma: «Io contemplo in questo argomento quanto l'intelligenza elabora. Non è infatti possibile che una qualche similitudine arrivi alla verità intera, senza produrre delle contaminazioni». Orazione 31.11. È considerato il rapporto tra linguaggio proprio e traslato, ma l'intendimento va oltre, perché supera la formulazione, appunto, per arrivare all'idea che si propone di manifestare. Verità qui è concetto osservato in relazione alla sua interpretazione verbale. Gregorio nota che tutti i paragoni, se hanno un aspetto che interpreta bene la verità, ne hanno anche altri che non vi si adattano e la deturpano, per cui è necessario effettuare una scelta oculata di quanto osservare e quanto gettare. E conclude: sono venuto nella convinzione che sia la posizione più salda quella di rifiutare le immagini e le ombre come ingannevoli ed immensamente inadeguate rispetto alla verità. Personalmente poi di attenermi all'idea più consona con l'ortodossia, di poggiare su poche parole e di seguire lo spirito come guida. Orazione 31-33. La stilistica viene pienamente subordinata alla teologia. Nella sua inesprimibilità la verità si innalza ad un'elevatezza maestosa e il massimo valore ontologico e concettuale è il perenne oggetto di conquista per l'uomo di cui costituisce la massima dignità. Di fronte ai virtuosi della dialettica che piegavano la verità ai meccanismi verbali, egli ritorna a dare alla parola il suo ovvio valore strumentale al completo servizio della verità. Gregorio considera più volte la precisione del linguaggio come l'ambito semantico di verità. Cerca di cautelarsi contro gli insidiosi slittamenti di significato ai quali sono esposti i vocaboli e contro la loro banalizzazione che smorza l'idea. Quarto punto. Riferimento storico. Dell'esattezza nel riferire gli avvenimenti nella loro consistenza e nel loro sviluppo, Gregorio faceva gran conto. Oltre ad un valore teorico implicito, ne vedeva uno pratico di grande importanza. I fatti condizionano i giudizi e quindi i comportamenti. A proposito della sua fuga dopo la coatta ordinazione sacerdotale e del successivo ritorno, osserva che agli uomini piace assai parlare degli affari altrui, soprattutto quando si trovano ad essere sospinti dalla simpatia o dall'odio, i quali, in generale, sogliono falsificare la verità. Io però, soggiunge, la verità la metterò in pubblico senza nessuna vergogna. Orazione 2.1. Qui siamo sul piano storico e la conoscenza concerne le modalità precise di quanto effettivamente è capitato. Lo scrittore vuole sfatare le false interpretazioni del suo agire. La disinformazione inclina facilmente a scivolare a tendenziosità e a malvagità. C'è senza dubbio un'esigenza apologetica, ma non manca l'intento di ristabilire la genuinità di azioni e di motivazioni in se stesse. È già un pregio. Lo concerne, ma anche lo supera. Ci troviamo in una dimensione contingente che fatica a non apparire angusta. Si esaurisce in un episodio, eppure anche questo conta. È forse solo un raggio tenue della verità, ma un raggio, seppure tenue, di essa lo è pure. La verità dei fatti, che nell'ufficialità dell'orazione seconda tendeva ad allargare gli orizzonti a convenienze pastorali e teologico-morali, nell'intimità di una lettera privata, epistola 139.1, sembra arrestarsi alla nuda obiettività. A Teodoro, vescovo di Tiana, Gregorio denuncia il disonore con cui lo hanno disonorato i vescovi in una circostanza che egli non precisa. Qui la verità non è menzionata, ma permea tutto il passo con una presenza incombente. Il poliptoto, il disonore con cui i vescovi lo hanno disonorato, il poliptoto traspira sdegno. Ci sono una suscettibilità ferita, l'indegnità di un'ignobile scorrettezza, la spinta a far conoscere l'autorità come stiano effettivamente le cose. E sono motivazioni che, fondendosi, assurgono ad un grado così alto che, portavoce della sua notificazione, Gregorio fa Dio stesso. Teodoro, da poco insediato nella responsabilità episcopale, era all'oscuro di tutto e non avrebbe potuto ovviare ad un meschino sgarbo passato, ma era bene che conoscesse la situazione. L'esatta puntualizzazione degli avvenimenti è già l'inizio di un loro riscatto. La parola di verità ha già una qualche efficacia purificatrice anche nella povera cronaca quotidiana. Talora nella cronaca quotidiana si annidano l'ingiustizia e la vessazione, di cui la verità in sede processuale diventa correzione. Epistola 162,4. E talora, orazione 8,1, la verità è giusta proclamazione di un merito autentico, in contrasto con i meriti inventati e falsamente attribuiti. Quinto, area teologica. La verità, nella sua massima intensità ed altezza, è la natura stessa di Dio, innumerevoli citazioni, considerata sotto angolature diverse. In Gregorio 2,1, Carmi, 2,1,1,211, dove Gregorio confida che dopo essersi liberato dall'oscure foschie di questa vita, brama contemplare con l'occhio della mente pura la verità in se stessa, intende con verità la divinità, insieme nella pienezza della sostanza e nella integrità della visione. Nell'orazione 20,12, quando asserisce, tu rimani tanto indietro alla verità quanto il tuo essere è superato dall'essere divino, sembra nella verità mettere in primo piano la comprensibilità umana, facendo però subito sopravvenire l'essenza divina nella sua realtà. Osserva l'ontologia divina come punto d'arrivo dell'intelligenza umana. Con questa ontologia gnoseologia siamo oltre ad un paragone, siamo ad una compenetrazione. Dio per noi è, ma è in quanto lo conosciamo. La verità acquista insieme eccellenza e saldezza. Da idea tende a fondersi con l'essenza divina. Nell'orazione 43-67, l'essere vero non è la natura stessa dello Spirito Santo, ma la conferma della sua specificità divina. Abbiamo la concordanza di realtà e di definizione. Nell'orazione 29,5, la verità designa tanto l'effettiva consistenza dell'operazione divina ad intra, quanto l'esatta interpretazione del testo biblico. Siamo al solito parallelismo dei due piani, formulazione umana e realtà divina. Però qui sembra emergere una peculiarità, poiché la scrittura, in quanto parola divina, ha con la realtà divina una strettissima comunicazione. Nell'orazione 7,17, Gregorio come pone verità e bene come sinonimi. Bene, che l'essenza divina non si arresta alla nuda entità, ma fiorisce nel rigoglio del calon. È una realtà che fiorisce in bellezza in sé, che in bellezza fa fiorire anche l'anima che la contempla. In orazione 7,14, l'accostamento sinonimico avviene tra verità ed eusebeia, quale interpretazioni d'un'unica realtà. Un collegamento vitale si stabilisce anche tra verità e cultura, e Gregorio lo affermò appassionatamente contro Giuliano, il quale pretese di vietare ai cristiani l'accesso alla cultura retorico-letteraria greca. Il Nazianzeno gli replicò che la forza confutatrice dell'impietà pagana che il cristianesimo possiede non risiede nell'abilità stilistica, ma nella conoscenza della verità e nei ragionamenti. Noi consacriamo a Dio la parola, come facciamo dei nostri corpi, quando li dobbiamo impegnare nella lotta per la verità. Orazione 4,5. Riconosce l'efficacia della dialettica della parola in difesa della verità, ma ne afferma anche il valore strumentale. L'espressione letteraria non è un valore in se stessa, come tendeva a credere la sofistica, è un mezzo per l'illustrazione della verità, alla quale è consacrata anche la vita. La verità si installa al culmine dei processi intellettivi umani. Tutto le è finalizzato. Se la reazione sdegnata all'editto di Giuliano costituiva una celebrazione della stilistica, costituiva ancor più una consacrazione della verità. Sull'autorevolissima base di Giovanni 14,6 veniva spontanea la definizione di Cristo quale verità. E difatti Gregorio la ripete sovente, riflettendone sopra coloriture particolari. Se verità è Dio ed è Cristo, è anche il regno dei cieli, regno di Dio apertoci da Cristo. alla vita paradisiaca Gregorio ha lo sguardo fisso come motivazione di una determinata impostazione di vita per sé e per gli altri. È una pienezza gaudiosa che si sublima nella divinizzazione, altro punto focale della spiritualità gregoriana. Sesto punto, sintesi semantiche. In Gregorio incontriamo spesso un processo di concentrazione semantica. Nel Carme 2.2.4.84.86 colloca la divinità sui due piani della deduzione logica e della contemplazione diretta. Nell'orazione 25.4 la verità è insieme realtà delle cose e giustezza dei processi logici. Quando nell'orazione 28.20 proclama Paolo, difensore della verità, conferisce alla parola un'accezione assoluta ed universale, ma le proietta anche sopra un riferimento alla credibilità di 1 Corinti 13.9 che stava commentando. Nell'orazione 29.13 ricorre tre volte la radice verità. Le prime due assume il senso tecnico, la valenza filosofica di esatta interpretazione della natura effettiva in accezione specifica, la terza invece in senso assoluto. Quando nell'epistola 44.1 chiama Eusebio di Samosata ambasciatore della verità, può alludere sia all'ortodossia di cui Eusebio era sempre stato difensore impavido e che accorreva tutelare, favorendo in Basilio l'elezione di un vescovo dalla dottrina intemerata, sia alla adeguatezza della scelta che era venuto a patrocinare, che era quella vera, in base al merito della persona, Basilio, e agli interessi della Chiesa. Il quadro semantico è sostanzialmente analogo nell'orazione 23.2, dove troviamo l'ortodossia teologica, ma anche la realtà del comportamento di Gregorio e la saggezza delle direttive, un intreccio che costituisce l'anima di Gregorio. Nell'orazione 30.20, dove menziona verità, quale appellativo che compete al figlio, ci unisce due stati diversi di presenza di un carattere della verità, la unicità e di calco perfetto della riproduzione dell'archetipo originario formato al padre. Le due proposte non si integrano, si sommano. Alla debolezza della prima, forzata trasposizione di una qualità della verità filosoficamente intesa alla persona vivente del figlio, alla quale giunge come ovvia e quindi superflua, Gregorio ha rimediato rincalzando con la più precisa e persuasiva seconda motivazione. Nell'epistola 16.8, alludendo alla dolorosa incomunicabilità con Eusebio, vescovo di Cesarea, non lo storico evidentemente, asserisce, Cesarea di Cappadocia, asserisce, la mia pena non oscurerà la verità, concentrando nella sacralità austera del vocabolo una complessa simbiosi di contenuti. Verità qui indica infatti varie cose, il merito indiscusso di Basilio, il contegno errato di Eusebio, la sua mancanza di carità, il sentimento di Gregorio in tutta la sua schiettezza, una luce che non può venire ottenebrata. Un valore particolare il termine assume nell'epistola 59.3, dove di fronte all'irritazione che Basilio aveva dimostrato per la lettera 58 di Gregorio, questa dichiara a sua vigorosa discolpa. Se in questo frangente mi sono comportato con inganno e con malignità, riceverò un danno non tanto ad opera del tuo dolore, quanto della verità. Qui la verità è personificata con spirito diverso, ma sulla medesima linea di costume con cui si solevano personificare virtù e vizi astratti. All'inganno che pone ad ipotesi irreale contrappone l'intervento della verità sua antagonista. Non è una personificazione di tipo mitologico, ma di tipo morale. La verità non è una persona, ma una forza, è un valore dello spirito ed una legge della mente. Una sua violazione comporta disfunzioni in quegli organi nei quali essa agisce. Assume una sua individualità. Sulla stessa lunghezza d'onda, nell'epistola 72, conforta il Nisseno, che era stato deposto dal seggio episcopale e cacciato dagli ariani, rassicurandolo che si sarebbero stati costretti a rintanarsi perché combattuti dalla verità e dalle vicende del tempo. Nell'austerità solenne del vocabolo emerge un'ombra di personificazione. È un'entità che non ha figura, ma ha una misteriosa consistenza spirituale. L'epistolografo non ne spiega la struttura ontologica, ne sente la potenza. Più forse che aver forza è una forza, perché è un valore, e siccome è un valore senza scorie, è anche una forza senza sconfitte. È immanente o trascendente. Come persona assoluta in piena trascendenza si identifica evidentemente con Dio. Ma più volte, dinanzi ad essa, Gregorio sembra fermarsi prima, sembra considerarla un agente interno alla storia. La nostra mente è fatta per la verità, alla quale tende per una pressione costitutiva e quindi incoercibile, per cui alla coazione dell'errore finisce prima o poi per ribellarsi. La verità è insita nell'anima come aspirazione, come lo è anche superiore come direttiva. Opera. È però ben diversa dalla nemesi storica laica, ricordate qua di Carducci, Napoleone Eugenio, Miramar, totalmente priva di radici e di connotati. La verità di Gregorio si fonda nella psicologia e nella provvidenza. Settimo punto, la verità come ortodossia. È frequentissima l'accezione di verità quale ortodossia, che le circostanze assai facilmente suggerivano come trinitaria. Talora si riferisce più specificatamente alla sana fede dello Spirito Santo, Epistola 43-67 altre volte. Spesso verità designa l'ortodossia in generale, nella sua integrità, qualificandola mediante la sua collocazione davanti a sfondi svariati, ricchi di concrete situazioni storiche. La verità non di rado assume l'accezione un po' più allargata di cristianesimo, nella valenza che il vocabolo assume nell'uso corrente. Il cristianesimo, in quanto verità, trova la sua naturale collocazione come superamento definitivo di un Antico Testamento, che era prefigurazione e promessa. All'ombra dei profeti succede la verità degli apostoli. Un altro tipo di ombra, che non ci viene offerto dalla storia, ma dalla natura, non dalla Bibbia, ma dalla riflessione, è costituito dalle cose del mondo. In Orazione 38:7 afferma che Dio, oceano di estere, straripa al di là di ogni pensiero, può venire adombrato soltanto dalla mente e ciò ancora in maniera oscura e dentro limiti precisi, non in base a quanto ha in sé, ma in base a quanto ha attorno a sé. Ad una cosa se ne può trarre un'immagine, ad un'altra un'altra, in modo da farne, per così dire, una sola figura della verità che ci sfugge prima di essere afferrata e si invola prima di essere pensata. Verità sovrappone all'ammessa idea di realtà di essenza quella di rappresentazione autentica. Il concetto effettivo, una completezza di visione che sintetizza apporti particolari. Siamo all'arrivo ad un laborioso processo di composizione di elementi frammentari. E la verità è vista dal basso, come punto d'arrivo della nostra intelligenza. Ottavo, fatevi coraggio, siamo già a 8 per arrivare a 12, ormai la metà è superata, quindi siamo sulla discesa, e la discesa è naturalmente più facile come scivolo, e quindi pensate, se non al passato, almeno al futuro che promette bene. Ottavo, equilibrio interpretativo e missione del sacerdote. La verità è una unicità che viene insediata dalla molteplicità illimitata dall'errore, insidiata dalla molteplicità illimitata dall'errore, tra le cui deviazioni spiccano quelle estreme dell'eccesso e del difetto. Se il difetto, per quanto concerne la fede e verità, appare subito colpa, l'eccesso potrebbe sembrare una benemerita generosità, mentre è anch'esso errore. Gregorio, pertanto, fin dall'inizio del suo ministero pastorale, mise in guardia contro certuni che a Nazianzo erano troppo ortodossi, Orazione 2:37, e pronunciò una norma precisa: bisogna rimanere nei confini della pietà, senso verità. La verità non basta volerla, è necessaria un'alta superiorità di spirito per possederla. Ha una precisa frontiera contro l'errore, per cui va accuratamente tutelata da intrusioni inquinanti. L'eresia è squilibrio, la verità appare intelligenza e dignità, che nascono soprattutto da una chiara ampiezza di visione. È una sintesi che compone in un ordine vitale tutti gli elementi, senza né enfatizzarne né sacrificarne nessuno. Nell'orazione 4.20 traccia una specie di sommaria linea di condotta a riguardo. È bene non essere né più torpido di quanto sia giusto, né più fervido, così da condiscendere a tutti per eccessiva adattabilità o da rompere con tutti per insocievolezza. Tuttavia, contro l'impietà evidente bisogna lottare fino all'estremo per non tradire la verità. Non si devono però procurare scismi per sospetti o timori incontrollati. La verità ha quindi un valore assoluto che non permette di retrocedere dinanzi a nessun pericolo, però la sua interpretazione va esaminata con animo pacato. Per essa occorre devozione, non esaltazione. La verità prima, la verità è prima ed è sopra la persona, ma è per la persona. La passione sregolata per la verità può addirittura condurre a rinnegarla. Sei, tre, in riferimento al desiderio dei monaci di Nazianzo con il vescovo, lamenta: in nome della verità ci siamo falsamente accusati a vicenda. Il culto della verità non va esasperato in una intransigenza che faccia perdere di vista l'esatta natura dell'oggetto. Invece che allo spirito ci si può attaccare alla formula, dimenticando che la verità ha un suo nucleo vitale che può affiorare in una iridescenza di enunciati, per cui essa va amata, ma anche capita. Se tutti di fronte ad essa hanno degli obblighi categorici, le hanno tanto più i sacerdoti, che della verità sono i cultori, i dispensatori, i difensori ed i giudici. In orazione 273, la vibrante celebrazione della dignità della missione sacerdotale si apre con la proclamazione di protettore della verità. La sua trasmissione non ne implica soltanto una conoscenza, ne presuppone anche una didattica. In orazione 2.35 sottolinea la difficoltà di dare a ciascuno, in rapporto alle circostanze, la sua porzione nutritiva di insegnamento. Ci sono la deferenza verso la verità e la comprensione di chi la deve ricevere. Per la verità bada anche la pedagogia. Infatti, in orazione 2.43 inculca l'attenzione a non lasciare che prima di essa venga inscritto nell'anima l'errore, poiché la sovrimpressione della verità risulterebbe poi sempre precaria e confusa. Nell'orazione 58.11 raccomanda anche la parsimonia in rapporto alle contingenze. Incombe il caso di Basilio. La verità, prima che divulgata, va rispettata. Porgerla con intempestività non sarebbe neppure carità. Nono, colpe e nemici della verità. Spesso la verità è mal servita dalle insufficienze del presentatore. Oscurità nelle idee o fiacchezza nell'esposizione possono far sì che la verità zoppichi. 2.39. Gregorio condanna quanti non l'hanno raggiunta per atonia morale. 2.40. Anime pulite ma languide. Avverte che contro di essa può operare l'inganno, al quale ricorreva volentieri Giuliano, come nel caso dell'abbinamento del congiario e di atto idolatrico, famoso capitolo 84 dell'orazione 4, quando abusò dell'ingenuità della truppa per indurla surrettiziamente all'apostasia. La verità può venire profanata anche ad un uso indebito che la strumentalizzi. Da entità può essere fatta passare a schermo. Così in orazione 22.5 Gregorio ne respinge l'impiego quale copertura di risse interne dovute a momenti passionali ignobili. Era una sua dimostrazione di eccellenza sul negativo. Anche gli avversari della verità si rifugiano sotto le sue ali. Siccome la verità esige purezza ed altezza di spirito, orazione 2.41, è naturale che abbia molti nemici. Ci sono gli ortodossi timidi che non osano proclamarla, gli opportunisti che la aderiscono solo quando conviene, orazione 21.34, gli sprovveduti in fatto di cultura e gli illusi, i disancorati che fluttuano su tutte le correnti in preda ad una boriosa sufficienza. Si armano contro la verità gli ambiziosi e gli arroganti, i sobillatori e soprattutto gli eretici, che sono una rovina delle verità e traditori della verità. Decimo, accessibilità ed eccellenza. Il raggiungimento della verità è strettamente condizionato ad una severa ascesi morale ed intellettuale. Interessi, piaceri, passioni trattengono, si richiedono purificazione ed elevazione. Gregorio maturò la convinzione che ogni verità ed ogni ragionamento sono malagevoli da arguire e da contemplare. Noi pretendiamo di costruire i grandi risultati con un piccolo strumento, quando diamo la caccia alla conoscenza della realtà con la sapienza umana ed andiamo all'assalto dell'intelligibile con i sensi. Della verità segna due gradi di conquista: l'individuazione attraverso gli indizi e la contemplazione in un abbandono che produce una dignità nobile e serena. Però i sensi attraverso i quali operiamo ci fanno barriera. La verità sta insieme, in alto ed oltre. Se si limita invece la verità all'ortodossia nella sua pienezza, vi possiamo arrivare. Non solo gli spiriti alti, ma anche quelli che non si sono lasciati travolgere dalle passioni, anche se offuscati da zelo indiscreto. Costoro possono rettificare le loro opinioni e per riflessione interna o per ammonimento esterno. 2.40. Siamo aperti alla verità, ma anche inibiti dall'inerzia. Gregorio bandisce ogni passivismo. La verità è a portata di mano, ma va conquistata. In senso assoluto noi restiamo indietro rispetto alla verità, in maniera infinita. 20.12. La formulazione della sua plastica evidenza rende insieme l'inadeguatezza umana e la sublimità della vetta. L'arretramento dell'uomo è una negatività aperta su una positività. La debolezza è commisurata all'eccellenza della meta. E soprattutto questa risultare straordinaria. La verità qui è considerata è infatti il regno dei cieli e la conoscenza di Dio. Solo Dio vi ci può condurre, perché alla verità Dio è guida, come di essa è oggetto. Aderendo all'apocrifo Esdra 1.4.35, Gregorio ripete che tra tutte le cose la verità è quanto c'è di più forte. Orazione 23.4. Asserzione che ripete anche nell'intimità confidenziale di una lettera ad Eulalio, suo cugino e suo successore, 158.1. L'eccellenza della verità è dimostrata anche dal fatto che Gregorio la vede simboleggiata nelle perle, che non vanno gettate ai porci. Dio stesso interviene nella storia per segnalarla e difenderla. Gregorio vede infatti nella caduta di Giuliano uno di quei miracoli che rassodono nella verità. Gli spiriti che si lasciano turbare dalla irrazionalità della fortuna. Gregorio ne ha un'idea pervasa di religiosa ammirazione, tanto da avvertire un flusso elevante al solito solo contatto mentale. Io, nella continuità del ricordo della verità, sarò santificato. 42.14. 11. Dedizione alla verità. Gregorio inaugura il suo ministero episcopale con un invito a purificarsi in onore di Dio, per il quale i martiri si purificarono con il sangue e la verità. Orazione 11.4. Martirio e verità sono le supreme consacrazioni a Dio. Solo la verità rende genuino il martirio e solo il martirio si eleva all'altezza della verità suprema. Perciò Gregorio incalza come atto di devozione ai martiri, testimoniamo la verità. Ancora 11.4. La verità è l'atto di devozione sommo, supremo valore intellettuale, di tutti i valori diventa il fondamento. È pertanto naturale che attorno ad essa si stringano tutti i grandi campioni della fede. I Maccabei, Cipriano, Atanasio col fratello Pietro, Basilio, Erone, sono tutti difensori della verità. Essa irraggia una pienezza potente, si presenta con un pregio assoluto. Di essa fa sfilare come araldi i più alti personaggi della storia neotestamentaria ed ecclesiastica. Del fratello Cesario ricorda con orgoglio le lotte che impegnò in difesa della verità. Orazione 7, 11, 13. La verità per Gregorio è bene preminente anche sulla pace. Orazione 42, 13. Una pace a scapito della verità sarebbe una capitolazione e poi sarebbe insostenibile perché fondata sul vuoto. La verità è quella che convalida tutte le cose. Gregorio può quindi affermare che a leggere il cristianesimo, che quando le circostanze lo impongono, si affronti il pericolo per la difesa, pericolo per la verità, e non si tradisca per viltà la fede. In confronto con la filosofia, c'è una fittissima acquisizione di densità. 12, finalmente. Atteggiamento di Gregorio dinanzi alla verità. Quando gli avvenne di rappresentarsi alla mente coloro che proclamano con franchezza la verità, gli proruppe dal cuore uno di quei gridi nei quali si concentra e freme tutta l'anima. Alla schiera, alla loro schiera, posso appartenere anch'io. È infatti il massimo vanto che mi posso tributare. Orazione 21-34. Era la sintesi della sua vita, anche perché per tutta la sua vita si protrasse. Infatti quell'anelito non era che la riemersione di un identico palpito che gli si era effuso nell'intimo circa 18 anni prima. Risonava il medesimo accento a Costantinopoli da Nazianzo, da patriarca e da neo sacerdote. Fin da allora aveva infatti espresso il fervido voto. Potesse essere uno di quelli che lottano per la verità e che perciò vengono odiati. Mi farò un vanto di esserlo. È meglio una guerra lodevole che una pace separata da Dio. Al momento di abdicare dalla sede di Costantinopoli, sua massima apologia dinanzi ai vescovi del Concilio fu l'affermazione di essere oggetto d'antipatia per quell'esposizione aperta della verità nella quale si rivendicava in primissima linea. 42-14. A pochi mesi di distanza contrapponeva a tutte le angherie alle quali sottoponeva i suoi avversari il fatto di essere stato giudicato degno di diventare l'araldo della verità. Epistola 103. In verità il concetto predominante è quello di realtà di cose e di eventi. Aletheia è insieme vocabolo corrente, facilmente accessibile ed è parola avvolta in un alone di maestà. Pare vicina, maneggevole, ma si rivela anche lontana, misteriosa, dall'ambito indeterminabile. È termine che trascorre per un'indefinita molteplicità di piani e suscita echi prolungati. Sembra sovente proiettarsi su dimensioni ulteriori che lo scrittore intende suggerire senza specificare. Questa insistenza sull'idea e questa altezza di interpretazione sono naturali. Infatti il cristianesimo è una salvezza che va oltre all'annullamento della perdizione e sublimazione totale della persona fino alla divinizzazione, ma di essa la verità è condizione essenziale, come è coefficiente di dignità e di grandezza. Gregorio ha parlato, come vedete, e infinite altre citazioni negli atti, ha parlato moltissimo della verità. Oggi forse non si ha più il coraggio di parlarne. Torino, che da sola possiede metà dei robot d'Europa, che ha da sola con Ivrea più di metà dei sistemi elettronici più perfezionati, trionfo dell'intelligenza umana. Torino è la sede dove si elabora la filosofia del pensiero debole. L'uomo non riesce, il pensiero debole, annaspiamo nel vuoto, ma il pensiero che è debole o il carattere che è debole, non riusciamo a vedere la verità o abbiamo paura di vedere la verità. Gregorio, quest'uomo così pieno di trepidazione, aveva anche un enorme coraggio, prima di tutto il coraggio della verità. Permettetemi che io dica prima qualche cosa distrattiva. Si dice a Roma, gli italiani hanno la verità, gli spagnoli difendono la verità, i francesi ricercano la verità, i tedeschi complicano la verità, gli inglesi pronunciano male la verità e gli americani fanno astrazione dalla verità. Allora, con il professore non abbiamo fatto astrazione, non abbiamo pronunciato male, non abbiamo complicato la verità, siamo andati in ricerca per averla e difenderla, perciò vi ringraziamo. E ora il professore Kertsch viene da Graz, dove abbiamo conosciuto un grande bizantologo, Endre von Ivanka. E ho sentito che lui è suo discepolo, dunque sentiremo.